fare tutta la Resto Radio Convento per raccontarsi, per raccontare. Eccoci qui, buonasera, benvenuti o meglio bentornati sulla nostra Risto Radio Convento dopo alcune settimane di pausa, come ovvio, giusto che sia, dovute insomma a tante cose che sono successe, non stiamo qui a ricordare. Siamo finalmente tornati, io sono Master Nick in diretta e come è giusto che sia nella logica della nostra radio non sono solo, ma sono felicemente accompagnato non solo da due esseri umani, insomma, belli, importanti, ma anche e soprattutto, come piace a noi, da due fantastiche donne che sono venute qui questa sera per puntini puntini puntini, lo scopriremo nei prossimi minuti. Intanto le andiamo a conoscere e a presentare. Come vi chiamate? Renata. Monia. Renata e Monia, ok? Che sono due nomi che non si sentono spesso. Soprattutto Renata, che è coniugato al femminile, devo essere sincero, l'ho sentito veramente poche volte. Mentre Monia, sì, si sente di più, però non è così diffuso, confermi? È stato diffuso negli anni 70 e poi... Cioè, nel senso, nella tua vita hai trovato tante omonime? No, o... no, vedi che non ti è capitato. Pochissime. Renata, immagini, no, invece, tu ne hai trovate. Io ne conosco una, ad esempio, e basta. Al di là di te, è stato bellissimo conoscerti questa sera. Oh, cioè, il momento grazie. Più bello della mia vita in questo momento. No, però, realmente, ne hai trovate tante? No, non tante. Vedi, quindi... No, meglio no, così siete più originali ancora. E invece pensa che le mie uniche compagne di viaggio si chiamano tutte e due Renate. Compagne di viaggio in che senso? Quando vado in giro per il mondo, sì? Una è lei, questa Renata, sì? E una è un'altra Renata. Ma pensa a te, però, sì, forse è per quello che lei ti dice che ne conosce tante, perché ormai nella testa ha sempre la stessa persona e crede che sia diversa, cioè, nel senso, le sembra riconoscere tante persone ma è sempre la stessa. Sempre quella. Esatto. Da dove venite, ragazze? Da Bario, Valle di Scalve. Aiutami, Bergamo. Di provincia di Bergamo. Bergamo, provincia di Bergamo, ok? E siete qui questa sera per quale motivo? Siamo in vacanza all'Azise. Ah, però, in vacanza all'Azise. Sì, abbiamo portato le figlie. Siete tra le fortunate che possono, tra virgolette, permettersi le vacanze a luglio, quindi. Assolutamente sì, direi di sì. È un'altra vita, eh. Qualche giorno però, Ah, ok. Solo qualche giorno. Toccate e fuga, toccate e fuga. Sì. È la prima volta che venite in zona? No, immagino di no. No, però è la prima serata che facciamo qua da voi. Ah, ok, questo bene, bene. Allora, felici di avervi conosciute, speriamo che averci conosciuti vi abbia, come dire, portato gioia e divertimento, che è quello che vogliamo sempre. E come zona è una zona che frequentate spesso, anche in questo caso è la prima volta? Io no, sono venuta parecchie volte all'Azise. Ok. Io invece è la seconda volta che vengo. Ah, seconda volta, sì. Quindi una novizia. Qualche anno fa e ci sono ritornata. Una novizia, ok, ok. E capita invece spesso di andare in vacanza insieme tra voi? Sì. O è un caso? Ogni tanto facciamo qualche viaggetto all'estero insieme. Ah, addirittura all'estero, ma come mai? Per lavoro o per... No, ci prendiamo 2 giorni di pausa, dopo 5-6 mesi di lavoro, 2 giorni di pausa andiamo... Una sorta di rito sabbatico. Assolutamente. Pausa, sì. Da ripetere. Da lavoro, da famiglia, da figli. Sì. E si parte, si va qualche E da giorno. Quanto tempo riuscite a mantenere questa cadenza o questo appuntamento? Penso che abbiamo iniziato 5-6 anni fa, giusto? Sì. E riuscite a mantenere la frequenza? Sì. A timbrare il cartellino, come si dice? E questa volta Bravo. Abbiamo portato anche le figlie. Anche le figlie? Anche le figlie. Che si conoscevano già o...? Sì. Sì, okay. Sì, hanno frequentato asilo, elementari... Ah, tutta la strada insieme. Sì. Ok. E stasera si stanno divertendo. Sì? Oh, bene, bene. Anche quello è importante, anche quello. Figlie ragazze o figlie bambine? 16 anni. Quindi già sulla strada per le ragazze. So che per voi sono sempre figli anche a 54 anni, però... insomma, voglio essere un po', come dire, il vostro grillo parlante e mettervi nell'orecchia la voce che stanno crescendo, anche se voi non ve ne accorgete o non ve ne volete accorgere. No, ma ci rendiamo conto. Ah, bravo. Cioè, brave. Vediamo che comunque hanno voglia di divertirsi. Siete mamme moderne. Sì, brave. Sì. Come si chiamano? Deborah e Alessia. Deborah e Alessia, molto bene. E hanno già, come dire, qualche inclinazione particolare, una visione del loro futuro, una direzione, una speranza, un sogno? No, la mia no. Niente, mia no. nulla. Neanche la mia. Niente, non ha neanche un... È ancora presto, dai. anni. No, dico neanche un sogno, ripeto, un desiderio, una speranza. La mia dice: io voglio fare la bella vita. Diciamo che è un po'. Voglio divertirmi, non voglio lavorare tanto, voglio vivere bene. Cioè, diciamo che, che ha letto i libri giusti, ma non so se possa essere poi realizzato. Sarà dura. Sarà dura. Però, vabbè, cosa fanno adesso? Che scuola fanno? Liceo, tutti e due liceo. Di che tipo? La mia liceo delle scienze umane. La mia liceo linguistico. E beh, quindi comunque sempre nella visuale di vediamo più avanti, no? Vediamo più avanti. E a parte i viaggi, avete delle altre passioni? Avete delle altre cose che vi fanno battere il cuore? Musica, concerti. Mi piace tantissimo. Ah, quindi siete in, come dire, in sciopero adesso, no? Più che sciopero, astinenza. Quest'anno tra viaggi e concerti c'è proprio toccato. Proprio in astinenza. Allora, non per, come dire, mettere il dito nella piaga, ma cosa avevate in programma quest'anno? Allora, io avevo... Perché sicuramente avrete avuto in programma, perché sono cose che si gestiscono prima. Avevamo un concerto il 1° maggio, poi io avevo un concerto a settembre di Ligabue a Campovolo. Sì, certo. Che il l'anno prossimo. 7x7, no, cos'è? 30 anni. 30 anni, giusto. 30 anni di storia. 30 anni. E vabbè, è stato rinviato l'anno prossimo, 19 giugno, quindi ci andrò comunque. Sì, sì, sì. Poi abbiamo un concerto di Gianna Nannini il 1° dicembre al Forum di Assago, che ancora non sappiamo. Quello forse si riesce, quello forse. Beh, però essendo al chiuso, in ogni caso si dovrebbe riuscire, perché con i posti eventualmente numerati. Più che altro non hanno proprio detto che l'hanno annullato, rinviato. Sì, sì, in teoria dovrebbe tenere. In teoria dovrebbe tenere. Io avevo anche il concerto di Ultimo con Alessia, però anche quello è stato rimandato. Ah! Ok, ok. Beh, allora adesso non per, perché è bravissimo, sono io il primo ad amarlo. Una delle cose più belle che si sono viste in internet sono tutte quelle immagini del Premier Conte quando ha fatto le varie conferenze stampa, che gli hanno messo dei fumetti diversi ogni volta. E il più bello è stato: sappiate che non riapro le arene per i concerti fin quando Ultimo non annulla il tour. Perché non so perché è nata questa sorta di lotta su internet contro i concerti di Ultimo, e a un certo punto hanno tirato in ballo anche il Premier Conte, che diceva: finché Ultimo non annulla il tour non riapriranno i concerti. No, vabbè, a parte gli scherzi, diciamo che ha un'inclinazione un po' triste, quello sì, dai. Cioè, o forse il meglio di sé l'ha dato nelle canzoni tristi. Quello è forse la cosa che gli lamentano un pochino. Allora, io sono una grande appassionata della Nannini, come la mia amica Monia. E Ultimo è mia figlia, più che altro. Ah, beh, certo, certo. Non sì, sì. No, no, dico che la critica che gli fanno è che non sia molto allegro, ecco, come cantante. Invece, però è bravissimo. A me invece piace, nonostante comunque non sono della generazione, certo, di Ultimo, a me piace. Mi sembra più che altro un ragazzo un po' diverso dal solito, nel senso, a quell'età mi sembra tanto romantico rispetto ai sì, ragazzi di quell'età. Beh, ho seguito un po' la storia di Ultimo anche per vicende di amici che lo conoscono. È veramente partito da 20 persone in un bar, cioè i primi concerti erano nei pub da 20 come persone. Tutti i più famosi. Sì, sì, sì. Però dicono che sia uno dei pochi rimasto attaccato, o comunque con ben chiaro in testa quel percorso lì, e che quindi non si sia montato troppo la testa. Sì, no, però, sembra anche abbastanza determinato, ma sì, nello stesso certo, tempo certo. Un ragazzo anche semplice per, sì, sì, per sempre, l'età sì, che ha. Sembra di sì. No, beh, poi se lo sta meritando, insomma, il successo che sta facendo. Sì. Quindi appassionate di musica e dei viaggi, ok? Viaggi invece cosa avevate in programma? Allora, io avevo il 7-8 maggio a Lisbona, no, aspetta, no, Valencia, a Lisbona sono andata l'anno scorso, mi sto confondendo. E niente, questo viaggio non era in programma, però quando è finito il lockdown abbiamo pensato che comunque era giusto anche per sì, le ragazze. Sì, respirare un po'. Sì, poi le ragazze che si sono impegnate comunque con la scuola nonostante tutti i problemi che ci sono stati. Certo. Comunque lavorando a computer non è come essere in classe, tutto qua, sono impegnate tantissimo. Quindi abbiamo pensato di portarle. E poi io avevo detto: al mare quest'anno non ci vado. Invece, puntualmente, come al solito io faccio, quando io dico una cosa poi faccio tutto il contrario. Ah, però? Ho già prenotato la settimana a ottobre, però, perché aspetto ancora qualche mesetto che si calmi un po' tutta la situazione. Ho già prenotato Formentera. Con l'altra Renata. Formentera? No, quindi prendi questo rischio? Assolutamente sì. Prendi questo rischio. Sì, non... sono stanca di stare ad aspettare. Sì, ci sta, ci sta. Voglio andare in ferie e... No, tra l'altro brave perché, ripeto, prendete sempre la stagione, il fuori stagione, diciamo. Sempre, quindi potete sempre, godervela. Sempre. Anche perché ho letto che più Formentera di Ibiza l'hanno proprio ripensata totalmente, hanno tolto, chiuso tutte le discoteche e stanno puntando appunto sul turismo, non dico culturale, ma della bellezza. Perché dicono che siano anche molto molto belle, ma la vita mondana, la vita notturna nasconde un po' la bellezza che in realtà hanno. Certo. Quindi hanno proprio deciso di cambiare faccia all'isola e far uscire anche il lato estetico. Ma questo forse è più Ibiza, che è molto più mondana. Formentera? Ne leggevo un po' di entrambe in realtà. Ah, poi certo. Sì. Sì, sì. Una e l'altra. Una e l'altra. E il viaggio invece che avete proprio nella memoria qual è? La California. America. California? Anche lì ne parlano benissimo. Sì. Miami o tutto il giro avete fatto? Allora, spiega la nostra idea, cosa vorremmo fare. Ah, non avete ancora fatto quindi? Non l'abbiamo. Ah, avevo capito di sì. Avevo capito di sì. Aspettando che i nostri figli crescono ancora un po'. Avevo capito di sì. L'idea sarebbe di stare comunque via due settimane, quindi dobbiamo un attimo. Sì, se farla bene. Farla bene. Farla bene, certo. Esattamente. A me piacerebbe andare nella riserva indiana, perché io sono un amante. E... Pensavo una roba alla De Filippi, perché io sono indiana. Anche, allora, no, Monia è... anche la Monia mi cade per terra, come indiana è? Monia è più dalla Las Vegas. Ok. Io sono più della riserva indiana, quindi ci compensiamo, faremo un po' e un po'. Ok, quando la porti a Las Vegas, scippale il portafoglio, perché altrimenti diventa pericoloso. Tantissimo farlo in moto, perché sono un amante delle moto. Sì. Beh, lì noleggiano anche le dita delle mani, cioè veramente, cioè noleggio di tutto, quindi sì, ce la farai. Bisogna saperli tirare bene. Sì, quello sono d'accordo, quello sono d'accordo. E quindi questo sarebbe il nostro sogno, che lo realizzeremo. Sì, non è così impossibile. No. Anche perché per i periodi che scegliete, diciamo che avrete anche buone possibilità economiche per arrivarci senza rovinarvi la vita. Ecco. Sì, beh, se andate in bassa stagione dovreste riuscire. Sì, poi adesso è già un po' che l'abbiamo in programma, quindi cominciamo un attimino a risparmiare. Ci sta. Questo è il nostro sogno. Realizzato questo, poi ce ne sarà sempre uno nuovo. Tra due o tre anni. Bisogna studiare un nuovo obiettivo. Sì, dobbiamo sempre avere un obiettivo, altrimenti non abbiamo lo scopo. Però ecco, siete, come dire, californiane come mentalità. Cioè, il viaggio della vita per voi è quello, è la California. Sì. Perché e ci sono. La porta era il mio, ma era anche il suo. Ah, vedi, quindi vi siete trovati. Sì. No, perché ci sono tante scuole di pensiero, quella dell'Australia, c'è stato il periodo Australia, adesso c'è il periodo Nord, quindi Norvegia, fiordi, tutto quel mondo lì. No, no. Però ognuno ha il suo stile, ma ci sono dei periodi, ci sono stati due. Sì. Ma anche a moda poi viaggi. Sì. Tra virgolette selvaggio. Non un viaggio organizzato, non un viaggio tradizionale, certo. Un viaggio particolare. Certo, certo. Bene, bene, dai, allora vi auguriamo di esaudire questi sogni, grazie a Dio, realizzabili. Speriamo. Le figlie hanno anche loro questa spinta a vedere, a scoprire, a curiosare, o sono più remissive, sono più... No. Ci seguono bene. Sì? Sì, molto bene. Non è facile, cioè, nel senso, non è automatico, anche se viaggiare è bello, ma non è che sia assolutamente automatico. No, per quello ogni volta che io dico a mia figlia che vado da qualche parte, mi ci vengo anch'io sempre. Bene, bene. Quindi. Poi a volte dico di sì, a volte dico no, questa è una mia vacanza e tu non ci vieni. Certo. Beh, com'è giusto che sia. Va bene, volete in chiusura mandar loro un saluto, dir loro qualcosa? O dirlo a qualcuno in generale? Ciao Alessia. Ciao Deborah, spero che questa vacanza sia servita, a noi è servita tantissimo, però spero che sia servita anche a voi, perché il nostro obiettivo era farvi divertire. Ma sono loro! Allora, Federica... Ma ne è nata un'altra nel frattempo? No, questa è la cugina. È la cugina. Alessia Deborah. Ah, bene. Ebbene, e grazie. Grazie a voi allora, grazie. E quanto vi manca di vacanza, o siete già lì sgocciati? Domani è l'ultimo giorno. Sì. Va bene, insomma, ve la siete goduta, ne sono certo. Ok, allora grazie mille ragazze, grazie di averci fatto conoscere le vostre non più bambine, ma grazie anche di aver fatto conoscere voi stesse, che insomma ci ha fatto molto molto piacere e alla prossima avventura. Speriamo che nelle vostre tante tappe ci sia spazio ancora per un giro da noi. Ci sarà sicuramente. Bene, ci fa piacere. Ci siamo trovati benissimo, tu ci sarà. Benissimo, ci fa davvero piacere. Buonanotte, grazie ancora. Ciao. Grazie, ciao.